Gemelli, gennaio. Il 2023 parte per i gemelli con un bellissimo Marte in prima casa, che gli darà il giusto sprint per iniziare degli splendidi nuovi progetti. Giove, nell'undicesimo campo, darà apertura nelle amicizie e un fortunato sostegno da parte di conoscenti e amici. Sole, Mercurio e Plutone, dall'ottavo campo, lo aiuteranno a gestire al meglio le finanze e lo renderanno brillante nelle relazioni. Solo Nettuno in decima casa potrà ancora mettervi leggermente in difficoltà nel lavoro, ma solo per i nati nella terza decade. Febbraio. Sarete aiutati da Venere che dalla decima casa vi guiderà in nuovi progetti lavorativi, dandovi le soddisfazioni che meritate. Vi sentirete fiduciosi delle vostre capacità e sicuri di voi stessi. Dall'11 di febbraio anche Mercurio, in aspetto favorevole dall'Acquario, vi aiuterà favorendo studi e nuove iniziative. Marte in prima casa vi manterrà dinamici e fermi nelle vostre intenzioni. Attenzione a non sovraccaricarvi di impegni perché il vostro fisico potrebbe risentirne. Dal 20 di febbraio Venere nel vostro undicesimo campo favorirà le amicizie e le attività ludiche. Marzo. Mese di grandi cambiamenti, Saturno al medio cielo farà da richiamo all'ordine per i gemelli, che, volenti o nolenti, dovranno impegnarsi per i loro obiettivi, mettendo forza d'animo e concentrazione per portare a termine degli obiettivi o di lavoro o di studio, ma che potranno, nel corso dei prossimi 2 anni, portar loro molte, molte soddisfazioni. Dal 23 di marzo Plutone passerà nel vostro nono campo, riportandovi sui libri o aprendo la strada per nuovi viaggi o trasferimenti. Soprattutto negli ultimi 10 giorni del mese, Sole, Mercurio e Giove nel vostro undicesimo campo vi aiuteranno nel fare nuove conoscenze che fortunatamente si dimostreranno utili e costruttive. Aprile, Venere in dodicesima vi obbligherà a fare una riflessione sull'amore, portandovi a porre maggiore attenzione al vostro modo di vivere il rapporto. Inoltre, Marte, che è entrato da poco nel vostro secondo campo, vi obbligherà ad occuparvi fattivamente delle vostre finanze. Anche Mercurio, nella dodicesima, dal 3 del mese, vi porterà ad essere più riflessivi. Dall'11 di aprile, Venere nel vostro segno vi farà sentire più gioiosi e inclini a indulgere nei piaceri della vita. Dal 20 aprile, tirate i remi in barca perché l'eclissi dal toro del vostro dodicesimo campo potrà obbligarvi a rivedere alcuni aspetti della vostra vita e forse aprire gli occhi su eventi e persone che avevate sopravvalutato. Maggio, prima parte del mese, ancora potrebbe risentire dell'eclissi precedente, lasciandovi un po' titubanti. Per riprendere il giusto cammino, connettetevi al cuore, dato che Venere nel vostro segno potrà accendere un faro che illuminerà la giusta strada da percorrere. Dal 14 di maggio Mercurio riprenderà il moto diretto e questo alleggerirà molto la vostra vita e vi sentirete di nuovo liberi di seguire il flusso della vostra mente e dar libero spazio a progetti e nuove iniziative. Gli ultimi 10 giorni del mese vedranno Sole nel segno e Marte nella vostra terza casa, quindi tutto sarà più chiaro e definito dentro e fuori di voi. Giugno, dal 5 del mese, Venere entra in sestile, favorendo l'espressione dei sentimenti e delle vostre emozioni e darà sostegno a Plutone, che dall'11 del mese tornerà nell'ottavo campo, riportando la vostra attenzione sull'esigenza di gestire al meglio le vostre risorse, sia economiche che relazionali. Lo stesso giorno anche Mercurio entrerà nel vostro segno, ricordandovi il vostro potenziale e facendovi superare le piccole incertezze dei mesi scorsi. Gli ultimi giorni del mese ci sarà da seguire le finanze, grazie al passaggio di Mercurio in seconda casa. Luglio, dovrete occuparvi dei vostri affari per buona parte del mese e dal 10, Marte nella quarta, vi darà da gestire situazioni che hanno a che fare con la casa o le faccende di famiglia in generale. Gli ultimi giorni di luglio, con la congiunzione in cielo di Venere, Mercurio e Luna Nera, gli ultimi gradi del Leone, avrete l'opportunità di elaborare nuove idee e prendere degli importanti contatti. Agosto, Mercurio passa nel quarto campo, quindi dovrete gestire delle faccende di famiglia o legate alla casa. Concentratevi bene nella prima parte del mese, poiché poi dal 23 Mercurio diventa retrogrado, mentre Venere lo era già dal 23 di luglio. Entrambi potranno portare delle battute d'arresto rispetto ai vostri piani. Dal 27 di agosto poi anche Marte passa nella bilancia e quindi nel vostro quinto campo e potrete vivere di nuovo giorni baciati da Cupido. Settembre, la prima parte del mese, Mercurio ancora retrogrado in quarta, vi richiederà particolari attenzioni per la casa e per le faccende di famiglia, mentre nella seconda metà del mese sentirete che tutto fluirà con maggiore leggerezza. Venere dal 4 di settembre riprende anch'essa il moto diretto e vi sentirete ben disposti nei confronti dei sentimenti. Ottobre, il mese parte con un po' di rallentamenti, soprattutto intorno al 2, con l'opposizione di Mercurio a Nettuno, entrambi quadrati al vostro segno. Tale aspetto toccherà particolarmente i nati nella terza decade. Mercurio dal 4 del mese entra in bilancia in quinta casa. Si aprirà una nuova fase creativa e dinamica, vivetela pienamente. Dall'8 Venere entra nella quarta casa e avrete voglia di mettere mano all'arredamento, riordinare stanze che avevano visto accumularsi di oggetti del passato. Attenzione all'eclissi del 28, sarete obbligati a guardarvi dentro e a fare i conti con le vostre parti in ombra, ma anche in questo caso la capacità di guardare la vita con ottimismo e leggiadria vi aiuterà a superare anche questo momento un po' delicato. Novembre, Sole, Marte e Mercurio nel sesto campo aprono la strada a nuovi progetti lavorativi. Potrete dare la giusta cura al vostro corpo e prendervi un po' di tempo per voi stessi. A partire dall'8 di novembre, anche Venere in quinta casa vi porterà ad un risveglio di passione e Mercurio dal 10 di novembre nella vostra settima casa favorirà nuovi incontri e ravviverà vecchie amicizie. Verso fine mese, anche Sole e Marte raggiungeranno la settima casa, sostenendo la socialità e tutti i progetti che necessitano la collaborazione e lo scambio con il prossimo. Mercurio, dicembre, Mercurio in ottava casa vi stimolerà buone idee su come gestire le finanze. Venere dal 5 entra nel vostro sesto campo, in Scorpione, aiutandovi ad essere diplomatici e lungimiranti anche nei rapporti di lavoro. Il 12 dicembre una bella luna nuova nel vostro settimo campo vi permetterà di vivere al meglio le vostre relazioni. Si aprirà un periodo fortunato per chi è solo e cerca un nuovo compagno, mentre per chi è già in coppia ci potrà essere un rinverdire delle dinamiche nella relazione. Nel corso dell'anno avrete avuto modo di conoscere meglio voi stessi e questa nuova consapevolezza vi svelerà un nuovo modo di vivere le relazioni con il prossimo, sperimentando uno scambio ancor più genuino e profondo.